America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. They took your email away when you came in, but do you do it on the side? You know, I have a BlackBerry, but only 10 people have it, and I've got to admit it's no fun because they think that it's probably going to be subject to the Presidential Records Act. So nobody wants to send me the real juicy stuff. È una vecchia registrazione. Barack Obama è intervenuto a The View, un programma televisivo molto divertente della ABC con Whoopi Goldberg, con Barbara Walters, una delle grandi stelle del giornalismo televisivo americano, e con altre tre signore. Ecco, Barack Obama oggi è a New York, e a New York perché pronuncerà un discorso alla cerimonia di laurea di Barnard College alla Columbia University, e subito dopo andrà a registrare questo programma con queste signore che possono essere davvero cattivissime. Il presidente affronterà la questione del matrimonio fra gay, una tematica su cui ha fatto notizia la settimana scorsa. Ma per il presidente si apre anche una settimana piuttosto delicata. Ci sono un po' di problemi economici, come abbiamo visto, anche finanziari. La crescita non procede come dovrebbe. JP Morgan Chase ha subito una perdita piuttosto forte. Giovedì il presidente avrà il suo primo incontro con Hollande, il nuovo presidente francese, e subito dopo avrà come ospiti i leader del G8, con l'eccezione di Putin, che come forse ricorderete all'ultimo momento ha rinunciato, a Camp David. Terminato tra venerdì e sabato il G8, il presidente andrà a Chicago per il vertice della NATO. Ecco, un vertice della NATO piuttosto importante, perché capita proprio nel momento in cui c'è una escalation dei talebani. Hanno ucciso nel fine settimana Mullah Arsala Rahmani, un ex religioso che faceva parte dei talebani, che si era dedicato al processo di pace. Sempre nel fine settimana il presidente Karzai ha firmato la terza fase del trasferimento dei poteri, quella che attribuisce il 75% del controllo del territorio afghano alle truppe del governo afghano. Quindi è un passo in avanti importante per quello che capiterà al vertice NATO di Chicago. Al vertice NATO di Chicago si prenderà atto di questa ratifica, si prenderà atto del fatto che le cose stanno andando avanti e si confermerà la data di ritiro del 2014 per le truppe della NATO. Un vertice dunque piuttosto importante. Ma questa settimana non si parlerà solo di politica, si parlerà anche di economia. We are very supportive of the IMF playing a significant role in reinforcing the reform process in Europe. Il segretario del Tesoro Geithner sarà un po' il personaggio ombra di questi incontri, perché se il G8 affronterà a Camp David tematiche soprattutto di politica, beh, inevitabilmente dovrà occuparsi di economia. L'Europa continua a presentare qualche problema di instabilità. Gli Stati Uniti ovviamente dipendono da un buon andamento europeo per la tenuta non solo della loro economia, ma per la tenuta della borsa, della loro struttura finanziaria. Obama è molto preoccupato perché se le cose dovessero peggiorare, beh, peggioreranno anche per lui, e sappiamo che gli Stati Uniti e gli elettori americani soprattutto prestano molta attenzione all'economia nel momento in cui dovranno scegliere il loro presidente. Ecco, sul fronte economico però, proprio all'interno degli Stati Uniti, è capitata una cosa alquanto preoccupante. We took a $2 billion loss and we made it clear it could get worse before it gets better. You know, it could be volatile by $1 billion possibly. Jamie Dimon, beh, fino a qualche giorno fa era la grande stella della finanza americana, era diventato il portavoce di Wall Street e l'amministratore delegato, il presidente di JP Morgan Chase, la più importante banca americana, che ha subito perdite per 2 miliardi di dollari per un'operazione speculativa su prodotti derivati andata male. La faccenda, come potete immaginare, è gravissima. Avete sentito Diamond, che nel programma Meet the Press con David Gregory ieri mattina non cercava giustificazioni, diceva semplicemente: è stato un errore colossale, lo pagheremo anche dal punto di vista dell'immagine, lo pagheremo forse anche dal punto di vista vista della regolamentazione. Ecco, siamo arrivati al dunque dal punto di vista della regolamentazione, perché i capi di Stato e di Governo ne parleranno, soprattutto se ne parlerà al G20 di Cabo San Lucas fra un mese, e quindi al G8 si cominceranno a impostare alcune tematiche che riguardano la regolamentazione, ma a Washington si dovrà decidere se imporre una regola molto particolare. The role of these quasi-governmental institutions should be ended because they have a flaw which, you know, cannot be corrected. The people think because they're governmental they'll be bailed out, but they're profit-making institutions who are trying to make as much profit as they can in the meantime. Paul Volcker, la regola particolare di cui vi parlavo è la Volcker Rule, una regola cioè che impedisce a banche come JP Morgan Chase di effettuare operazioni speculative utilizzando capitale proprio, cioè per conto proprio, per conto della banca stessa. Questo si dice non dovrebbe essere possibile perché la banca è garantita con il denaro del contribuente e dunque non è giusto che ci sia questa garanzia ulteriore e che poi la banca vada ad effettuare operazioni che possono essere pericolose, molto rischiose, e soprattutto quando la banca è colossale ed è too big to fail, quindi troppo grande per fallire, richiederebbe l'intervento di nuovo del contribuente. Ed è qui che si chiude il cerchio, perché con questa evoluzione abbiamo visto che i problemi non sono soltanto macro, sono problemi anche di un sistema finanziario che non si è adeguato al passo dei tempi, che non vuole rispondere a queste nuove regole. Dunque Jamie Dimon in una delle dichiarazioni ha dovuto ammettere che il suo ruolo di portavoce perché non siano adottate regole troppo rigide nei confronti del sistema bancario, beh, questo suo ruolo sicuramente andrà a diminuire. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Tra l'altro domani vi darò alcuni dei risultati dell'esperimento che abbiamo condotto su Twitter la settimana scorsa. Vi preannuncio che proprio a partire da oggi si apre a New York una settimana dedicata a Twitter, a incontri multimediali, per cui di questo continueremo a parlare domani. Ed eccoci alla canzone del giorno. Nel bel mezzo del dibattito sui matrimoni gay, Tom Gabel, leader del gruppo punk rock Against Me, ha annunciato pubblicamente la sua decisione di sottoporsi a un'operazione per cambiare sesso. Against Me, The Ocean. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.